Per prima cosa, mettetevi comodi. All'inizio è meglio che vi sdraiate sul vostro letto o su di un divano, con le gambe e la testa in posizione comoda. Assicuratevi che mentre vi rilassate, sciogliendo i muscoli, la testa rimanga sorretta, in modo che non possa assumere una posizione scomoda. Non c'è bisogno che alcun muscolo sia in tensione per mantenere la posizione. È consigliabile che la stanza sia in penombra. Staccate il telefono per evitare distrazioni. Ora siete pronti per cominciare. Per cominciare una nuova settimana di Eclettica che un po' mi preoccupa, perché ho qua di fronte a me, le mie mani sono sopra un nuovo mixer, completamente nuovo, quindi dovendo fare tutto da solo, dovendo preoccuparmi di altre cose oltre a come muovere i cursori, altre cose per la varia strumentazione che ho qua alla mia destra e alla mia sinistra, ma anche pensare alle cose da dire, cercare di dargli un senso compiuto, può darsi che la mancanza di automatismi di uso di questo mixer mi porti a fare qualche strafalcione. Magari un periodo di rodaggio può essere accettato, spero di non mantenerlo troppo a lungo. In questa settimana vi dirò anche qualcosa di più rispetto alla prima di quelle serate che avevo pensato come evoluzione naturale di un Eifu DJ set che ormai non ha più senso di esistere, ma quello di cercare di portare Eclettica in luoghi pubblici. Vi darò più dettagli a partire da quello di una data, ma a proposito di date, proprio il sabato di questa settimana, in questo momento non mi ricordo che giorno di marzo sia, sono sicuro che sarà marzo, comunque sabato sera mi troverò a Livorno alla The Cage. Sono stato convinto a prendere parte alle selezioni finali della regione Toscana per quanto riguarda la fondazione Arezzo Wave Italia, e sarò lì, e mi sembra anche che siano convinti di mettermi in mano un microfono e fra un gruppo e l'altro presentarle, quindi non solo sarò al tavolo della giuria assieme agli Zoo, ma appunto dovrò presentare anche i vari gruppi, quindi magari sarà l'occasione di incontro con qualcuno di voi. Mi farebbe sicuramente piacere, al di là delle occasioni che abbiamo grazie a internet, ma un incontro vero ha tutto un altro valore. Il primo carabiniere che entrò nella stanza scivolò sul sangue e cadde su un ginocchio. Il secondo si arrestò sulla soglia come sul bordo di una buca, agitando le braccia aperte per lo slancio. «Madonna Santa!» urlò, serrando le guance tra le mani. Poi si voltò e corse nel pianerottolo e giù per le scale, oltre la porta e fuori nel cortile del palazzo, dove si aggrappò al cofano della punto bianca e nera e si piegò in avanti, spezzato in due da un conato violento. In ginocchio sul pavimento al centro della stanza, la pelle dei guanti incollata al pavimento appiccicoso, il brigadiere Carone si guardò attorno e gli sfuggì un singhiozzo roco, quasi un rutto. Questo era Almost Blue di Carlo Lucarelli. Thank you. 1798 à Paris, au couvent des Capucines, Robertson s'avance vers le public. Mesdames, messieurs, ce qui va se passer dans quelques instants devant vos yeux n'est pas un spectacle frivole. Il est conçu pour l'homme qui pense, pour le philosophe qui aime se perdre un instant entre les tombes. C'est aussi un spectacle utile à l'homme qui se laisse transporter par l'aspect étrange de l'imagination. Lorsque celle-ci rassemble la force et la transgression. La lanterne magique, la lanterne magique. Je veux parler de la terreur qui inspire les ombres, des caractéristiques des sortilèges de travaux occultes de la magie. Cette terreur que presque tous les hommes ont éprouvée dans leur enfance et que certains encore portent en eux. Yeah, I painted it. Very interesting. Well, maybe you're in the middle of a storm, you know, the waves are crashing over your tiny little boat there, and maybe you did what you had to do to get out. Maybe you became a psychologist. You got me. Or maybe you married the wrong woman. Maybe you should watch your mouth. Nothing lasts, did my best. È evidente come io vi debba delle spiegazioni. Spiegazioni su quanto vi siete ascoltati in questa parte di Eclettica. Tre brani, si sono già andati tre brani dopo il primo incipit dell'autore che caratterizzerà tutta la settimana, e spero che vi faccia piacere rimanere in compagnia di Carlo Lucarelli. E anche lo spezzone cinematografico, il primo dei tanti, del film per cui forse è troppo presto riuscire a essere così in grado di indovinarne il titolo. Se l'avete fatto siete veramente dei grandi. Comunque ci saranno altri indizi che verranno lasciati di intanto in tanto all'interno di Eclettica. Comunque partiamo dal primo disco che vi siete ascoltati quest'oggi, un nuovo album che arriva grazie alla Fat Cat Records per un artista al suo esordio ufficiale su etichetta del livello della Fat Cat. Lui si chiama David Carsten Daniels, è un artista statunitense della North Carolina, per la precisione. Sharp Teeth è il titolo dell'album, dal quale noi ci siamo ascoltati The Dream Before the Ring That Woke Me, questo è il titolo del brano che ha aperto Eclettica. Poi siamo ritornati sulla Lanterne Magique dei Grey Moon con il brano che proprio dà il titolo all'album. E poi Urlaub in Polen, il duo tedesco di Colonia, è arrivato con Tom Blub ad un bel disco, un bel album, Health and Welfare, dal quale tipicamente ci ascoltiamo la traccia adesso guardo la copertina del disco e ve la confermo, no, è la traccia numero 2 delle 11 totali per gli Urlaub in Polen, ovvero sia la traccia dal titolo Wanderlust. La volta scorsa ci eravamo ascoltati una nuova prova a nome Joachim, artista francese che incide per K7, che è arrivato dopo una carriera che lo vedeva soprattutto presente sui terreni della techno, che non ha completamente abbandonato, perché qualche traccia in questo disco K7 è ancora, diciamo, di quel genere, fa riferimento a quel genere, ma però si è dato ad un eclettismo che non poteva non trovare spazio all'interno di questa trasmissione. Per esempio la volta scorsa con un brano dal titolo Rocket Pearl, e quest'oggi per confermare quanto appena affermato con una canzone completamente diversa dal titolo Lonely Heart. Lui è Joachim. Yeah. I've never looked at a woman and been totally vulnerable. Known someone that could level you with her eyes. Feeling like God put an angel on earth just for you. Lui incide per l'etichetta inglese Little Indian One, Little Indian, ci voleva l'uno davanti, però non pensate che sia inglese, anche se è di Birmingham, però è di Birmingham, Alabama. Si chiama Dan Sartain, da Joint Dan Sartain, ci siamo ascoltati Thought It Over, che ha quasi chiuso la prima parte di Eclettica di questa settimana. Si chiude con il Galles di Graf Rise, cantante dei Super Furry Animals, che ogni tanto si concede una prova solista, come quest'ultima che esce per Rough Trade e che appunto chiude la prima parte di Eclettica in compagnia di Giulio Caperdoni. Si tratta di Candy Lion. Fine della prima parte.